gustoso anche a bere del vino, un crescendo morire piano piano, il successo che ti taglia le mani, che ti brucia le ali e il domani, come tanti un prodigioso massacro, acclamato, deriso, poi dimenticato, il mondo in mano a burocrati di ogni assenza, che quando parlano bruciano ogni coscienza. Lacrime sinfoniche, le tue musiche infinite, scritte su pentagramma, come stimmati, come ferite. Andremo, che rima bene chi semina grano, la tua musica respira di cielo e figlia di un grande uomo, che ti hanno dato inferno, a te il concerto del paradiso, tu che hai messo tutto il tuo sangue e ad ogni nota hai dato un viso. Talento a volte non basta, sono i vincitori a scrivere la storia, e si sa che il vero artista non ama vincere né cerca gloria. La tua vita da genio a uomo qualunque, tu che per vivere hai sputato sangue, a volte perdere può essere utile, a volte perdere ti fa più grande. Lacrime sinfoniche, le tue musiche infinite, scritte su pentagramma, come stimmati, come ferite. Andremo, che rima bene chi semina grano, la tua musica respira di cielo e figlia di un grande uomo, che ti hanno dato inferno, a te il concerto del paradiso, tu che hai messo tutto il tuo sangue e ad ogni nota hai dato un viso. Andremo, che rima bene chi semina grano, la tua musica respira di cielo e figlia di un grande uomo, che ti hanno dato inferno a quel concerto del paradiso, tu che hai messo tutto il tuo sangue e ad ogni nota hai dato un viso. Tutto il tuo canto, la tua musica respira di cielo e figlia di un grande uomo, che ti hanno dato inferno a te il concerto del paradiso, tu che hai messo tutto il tuo sangue ad ogni nota hai dato un viso. Andremo ad ascoltare tutto il tuo canto, la tua musica respira di cielo e figlia di un grande uomo,